Il professor Pastina viene da Torino, è consorzista presso la cattedra di filosofia della politica di Torino, che è da capo a Bobbio, il quale, segnalo anche a quelli che ieri non c'erano, era stato invitato a questo seminario, ha inviato una lettera molto bella di partecipazione dicendo che poi è disponibile a eventualmente collaborare. Pasquino parla su un tema che ha questo titolo, è così intitolato qui, Polizia celeste e polizia terrena, il cameralismo nel XVII secolo. Sì. Dunque, il tema di questa comunicazione potrebbe essersi scoscritto e definito in modo un po' più preciso da un sottotitolo come tradizionalismo, tra virgolette, e prestatalismo nella Biblis Politae di Dietrich Reinking. O se volete, il vino nuovo, come dice il professor Link in un saggio dedicato in quel volume curato da Sollice, Reinking, il vino nuovo nell'opera vecchia. In realtà questo sarà per me, il testo di Reinking, solo il punto di partenza. E questo in un duplice senso, innanzitutto perché vorrei, a partire da qualche considerazione su questo testo, giungere alla formulazione di alcune domande o ipotesi di lavoro che si riferiscono al tema generale di questo seminario, di cui, diciamo, oggi credo che viviamo quella che sarà solo di Erste Tagung, la prima seduta, no? E in secondo luogo, punto di partenza, e questa volta solo in senso più forte, perché si tratta per me dell'inizio di una ricerca tutta da costruire sulla teoria delle pratiche di governo nella Germania del XVII secolo. Appunto, insisto che l'oggetto è questo: teoria delle pratiche di governo nella Germania del XVII secolo, un secolo in cui si scontrano e si annodano nella cultura tedesca, in quello che mi sono abituato a chiamare questa cultura tedesca, il grande archivio della coscienza europea, aristotelismo ed ortodossia protestante, ragion di Stato, cameralismo e diritto naturale moderno. Un contesto, questo, in cui il tema che vorrei inseguire e che cercherò di definire più avanti è quello della genealogia moderna della politica. Ricerca questa, lasciatemi aggiungere, che vorrebbe avere come modello quelle che sono state prodotte, come modello ideale, quelle che sono state prodotte in Germania, in quello spazio descritto dai congiungimenti, dalle Verbindungen, fra, per dirla con Coselle, Begriffsgeschichte e Sozialgeschichte. Nonostante la mia incompetenza relativa all'iconografia politica del XVII secolo, mi è parso non inutile cominciare da un commento, fost'anche come sarà sommario e lacunoso, del frontespizio che appare a partire dalla quarta edizione dell'opera di Reinking. Prendendo origine, scusate per quelli che non potranno guardare questa fotografia, tra l'altro non è eccellente, tanto più che io non so descrivere bene le immagini. In ogni caso, prendendo origine da un triplice fiat divino, la società umana appare, viene presentata nella parte inferiore, in basso, come strutturata e divisa in tre ordini. Le immagini rappresentano, si vede male, diciamo, un altare, poi una camera con un trono e infine, diciamo, una stanza dove su un tavolo sono posti oggetti di lavoro dall'esterno, da una finestra. Questo certamente non lo vedete, ma credetemi, si vede nell'edizione originale dalla finestra, appunto, un contadino che lavora i campi. E invece, appunto, nella prima immaginetta c'è un altare con su, appunto, un metallo, e poi corpo e carne di Cristo. Dunque, queste, non è difficile, appunto, riconoscere in questa ripartizione quella che l'ortodossia luterana del tempo, i cui esponenti sono prima dell'età del XVII, Walter Reinking, autori come Karzow, Stefani e Kottmann, quelli che questa ortodossia chiama status ecclesiasticus, status politicus e status popularis. Nello spazio mediano, tra Dio, tra il fiat divino e gli uomini tripartiti, le due figure di Mosè e di Aronne. E in un testo contemporaneo, per tanti versi, singolarmente diverso, il Leviathan di Thomas Hobbes, che si trovano utili indicazioni sulla simbologia di queste due figure, quella del legislatore e guida del popolo, Mosè, e quella del profeta, Aronne. Essi rappresentano i mediatori tra la legge divina e l'ordine del mondo. Mosè, colui che governa conformemente alla legge, Aronne, colui che la interpreta, che sa farla parlare di fronte ai casi concreti della vita. Sono più o meno, diciamo, le osservazioni, ma sono più ampie, che si trovano appunto in alcuni capitoli dell'Egata. Vorrei suggerire forse che Reinking usa qui una vecchia, un'antica simbologia allegorica per raffigurare accanto al sovrano la figura del consigliere del principe. In certo modo vorrei azzardare il suo autoritratto. L'analisi dell'opera potrà forse mostrare che questo suggerimento non è del tutto peregrino. La traduzione francese del titolo dello scritto di Reinking, come appare, esiste solo una traduzione del titolo in francese, come appare nel catalogo della Bibliothèque Nationale di Parigi, è singolarmente chiara e suona régime, che nel francese del XVII vale maniera o arte di governare, dunque régime conforme alla Bibbia. E per il sottotitolo, allora dico in italiano, diciamo letteralmente quello che la traduzione francese, assiomi tratti dalla Sacra Scrittura relativi alle tre condizioni principali del genere umano, quella del clergé, del laïc e della famiglia. Il tedesco, vale la pena diciamo, riprenderlo, ha qui geistlichen, weltlichen und häuslichen Stand. E ancora, continua il sottotitolo, in altri termini, discorsi basati su esempi, su questo termine tornerò tra poco, basati su esempi e citazioni bibliche utili e piacevoli da leggere da parte di tutti gli età, o ceti o sedia, come volete. Martin Haeckel ha mostrato molto bene in uno studio fondamentale sulle dottrine relative ai rapporti fra Stato e Chiesa nei giuristi protestanti tedeschi della prima metà del XVII, Stato und Kirche, che la dottrina ortodossa dei Dreistände non è una versione qualsiasi della concezione medievale di una société de trois ordres, quella appunto su cui ha lavorato per esempio D.B. Essa rappresenta invece, questa Dreistände-Lehre di tradizione protestante, una reazione della ortodossia alla diffusione straordinaria e minacciosa nel mondo della cultura protestante dell'aristotelismo, quindi una reazione alla diffusione dell'aristotelismo politico. Si pensi soltanto qui al ruolo enorme svolto in questo XVII secolo dalla Università di Helmstedt e alle due figure di grandi teorici politici tedeschi, formazione aristotelica, come Henning Arniseus e Hermann Conring. Reazione dunque all'aristotelismo e alla ragion di Stato che, questo testo di Rankin, che penetrava in Germania in gran parte proprio via gli aristotelici. Questa dottrina dei Dreistände, del status ecclesiastico, status politico, status popularis, o come appunto presentato in altre versioni, pastores, magistratus secularis e civis ex populo, questa dottrina dei Dreistände svolge in particolare nell'opera di Rankin una duplice funzione e oscilla in certo modo fra due poli. Da un lato funziona come Kirchenverfassungsprinzip, e questo soprattutto nel primo importante lavoro di Rankin, un testo del 1619, cioè il Tractatus de Regimine Seculari et Ecclesiastico. E dall'altro invece funziona questa dottrina del tre ceti come individuante le categorie fondamentali dell'ordine sociale. Non è su questo punto però che voglio fermarmi, tanto più che Haeckel si sia fermato benissimo. Non è dunque su questo punto che voglio fermarmi, l'ho richiamato solo perché è a questa struttura che corrisponde la tripartizione e l'organizzazione formale del testo di Rankin, che tratta appunto in tre libri di Geistliche, Weltliche und Haus und Ehe Stand. Solo tre anni dopo, allora la prima edizione del libro di Rankin, della Biblische Polizei, che è del 53, era pubblicato ad Hanau nel 56 il grande trattato, il primo grande trattato del cameralismo tedesco, il Deutscher Fürstenstaat di Veit Ludwig Seckendorf. Il frontespizio di quest'opera mostra un paesaggio, che è l'altro, mostra un paesaggio abbastanza lontano da quello che abbiamo poc'anzi preso in considerazione. Sotto un dio muto in alto della scena, in primo piano l'aquila a due teste, simbolo dell'impero della nazione germanica, e quindi le immagini o l'allegoria del moderno stato territoriale, di cui il trattato del cancelliere di Gotha vuole essere, come egli dice, modello di costituzione Verfassung e di Regierung governo. Qui, in questa immagine, i ceti sono scomparsi. Al loro posto appaiono il principe ed il territorio. Quattro figure femminili, che ciascuna porta nelle mani un oggetto, un libro, una spada, un serpente e uno strumento di misura, sembrano fare allusione alle quattro qualità e funzioni al tempo stesso della Obrigkeit: prudenza politica e governo, simbolizzata dal serpente, difesa, simbolizzata dalla spada, istruzione, ma anche cura religionis, ed infine con lo strumento di misura si fa allusione molto probabilmente ai confini dello Stato, del territorio, ma anche forse a quella accurata conoscenza di esso con cui si apre la trattazione del Fürstenstaat e che si comincia nella Germania del tempo a chiamare statistica. Sullo sfondo, infine, città, monti, foreste, campi ed il mare solcato di navi, simbolo del commercio fiorente, delineano quello spazio su cui si esercita il potere del principe, cioè il territorio, e gli effetti di questo potere, il Wohlfahrt. En passant, ma anche per scusarmi del carattere approssimativo di questo commento, vorrei solo aggiungere che preparando queste note mi sono reso conto del grande valore che potrebbe avere una ricerca sistematica compiuta sull'iconografia politica del XVII secolo tedesco, forse anche dedicata alla sola serie dei frontespizi. Non conosco ricerche specifiche, mentre ne esistono in qualche modo sull'iconografia di Quasoc, ma non conosco ricerche specifiche su questo tema del frontespizio dei trattati politici tedeschi, ma gli amici del Zentralinstitut für Kunstgeschichte di Monaco di Baviera mi hanno messo di fronte a un'imponente bibliografia dell'immaginario seicentesco curata dal nostro Mario Prats, dove numerosi sono gli scritti dell'epoca sull'iconografia politica, uno dei quali, per esempio, di un autore importante per noi come Jacob Borni. I frontespizi di queste due opere sembrano dunque proporre due immagini molto diverse dell'ordine della società. Quella, diciamo, tradizionale religiosa di una società di ceti, in Reinking, quella moderna e mondana dello Stato, dove gli uomini sono quasi frammenti del territorio, il luogo giuridico materiale dove si esercita l'autorità del sovrano. A questo punto sarà quindi necessario andare come dietro le immagini e almeno fino alle parole per vedere se lo scritto di Reinking non contenga di più ed altro di quanto il frontespizio non lascia apparire, per verificare appunto se dentro l'opera vecchia dell'ortodossia luterana non scorra già il vino nuovo dello Stato. Ho detto poc'anzi che il libro si divide in tre parti relative ai tre stende e, nonostante l'affermazione con cui si apre il primo libro, quella sul Stato ecclesiastico, spirituale, la primo assioma o affermazione, diciamo, di Reinking, der geistliche Stand ist der erste, fürnemste und hat auf gewisse Masse den Vorzug. Nonostante quindi questa affermazione sulla preminenza, diciamo, del primo, del geistliche Stand, più di due terzi, se noi esaminiamo l'opera, più di due terzi delle 650 pagine sono dedicate dall'autore al Weltlicher Stand. Questa lunga trattazione si suddivide a sua volta in sottosezioni, fra cui spiccano le tre relative, la prima al Amt der Obrigkeit, Königen und Regenten, la seconda relativa ai Räten, Beamten und Diener, e infine quella che si riferisce agli Untertanen, quella relativa al potere pubblico, al sovrano, quella relativa ai consiglieri e funzionari del sovrano e quella che si riferisce ai sudditi. Qui, nella trattazione appunto dell'ordine mondano, del ceto, diciamo, mondano, i ceti sono scomparsi. Se si va al di là della struttura monotona e ripetitiva degli esempi che si ricollegano, perché appunto il libro di Reinking è strutturato attraverso citazioni che chiama esempio, siamo tratti dalla Bibbia, se si va al di là della struttura monotona e ripetitiva che commenta, di questi esempi che si collegano loro sì a una tradizione profondamente medievale, pensate appunto agli ordini predicatori, appunto alla funzione dell'exemplum nelle prediche medievali, a una tradizione medievale, dicevo, di un'etica dove gli assiomi, cioè le regole di comportamento, non sono altro appunto che esempi, storielle. Al di là di questa stessa cortina emergono ad una lettura attenta almeno due fatti che meritano di essere sottolineati. Innanzitutto, l'asse centrale o mediana della tripartizione in ceti mostra un'interna struttura che vede, come appunto osservavo, accanto intorno al sovrano, quella che più tardi si chiamerà la Beamtentum, e di fronte ad esso, sovrano e funzionari, la figura del suddito. Qui si possono aggiungere forse due considerazioni. La prima, che già in uno scritto singolare di un autore di cui non sappiamo nulla, Christian Friedrich, la Christliche Polizei o Prudenza Politica Cristiana, testo del 1614 su cui ha tirato l'attenzione per la prima volta che io sappia Hans Mayer. In questo testo si insiste nel capitolo dedicato al governo, von der Regierung, sul fatto che il reggente non può governare da solo. La seconda osservazione è che Reinking già nel Tractatus del 19 assegna al potere territoriale le quattro funzioni della protectio, della justitia administratio, della onerum exactio et prestatio e della religionis cura. In secondo luogo va rilevato che nelle sezioni del libro Ranking relative ai temi che potremmo chiamare cameralistici e comunque relativi alla buona gestione della comunità, l'autore sente il bisogno di prendere i suoi axiomata, un esempio, non più soltanto dalla Bibbia, ma dal testamento politico del Langravio Filippo di Assia. Il principe cristiano appare qui accanto alla Sacra Scrittura come fonte autorizzata delle buone regole di ordine del mondo. Sarà forse più utile ricordare che Dietrich Reinking, discendente di una famiglia di funzionari pubblici, ha trascorso quasi tutta la sua vita, dopo un breve periodo di attività accademica, infatti fu professore per qualche anno di diritto pubblico a Gießen, tutta la sua vita a servizio di principi tedeschi, prima a Gießen appunto, a Marburg, poi a Brema, al servizio del vescovo principe della città, le cui sorti seguirà quando questi sarà chiamato al trono di Danimarca. La sua esperienza di uomo di Stato traspare al di là della sua fede in molte pagine del trattato. Questo combattente della ratio dei, che egli oppone a quella di Stato, che chiama la ratio diaboli, sa perfettamente come autori quali Obrecht e Seckendorf, per cui pure l'arte di governo, la scienza più nobile di tutte, di origine divina, ebbene Reinking, come costoro, sa che i comandamenti di Dio, ma anche quelli di Filippo di Assia, sono muti e per così dire impraticabili senza di lui, Aronne, del Raab, del Beamter, che sa penetrare le tavole della legge. Nella prefazione al lettore della Biblia Polizzai, Reinking confessa che il suo libro, accanto alla meditazione della scrittura, è frutto del suo lavoro di funzionario pubblico e che è stato scritto, come dice, zu meinem Privatgebrauch, per un mio uso privato, quello per cui egli è andato prendendo nota nel corso della sua vita di osservazione politica. E che dire poi del paragrafo 52, per prendere solo un esempio, dove scrive che ein vollbestelltes Archivium, diarium und Geschichtsregistratur ist bei allen Regierungen, Kanzleien und Gerichten ein sehr nötig und nützlich wert. Qui, se volete, si misura bene la distanza fra il nostro autore e quelli del Fürstenspiegel, consiglieri di virtù cristiane. Qui, infatti, l'ordine terreno non è possibile senza una sua carta, l'archivio, il diario, ed una sua memoria. Vorrei interrompere qui queste scarne e certamente parziali osservazioni sulla Biblische Polizei e sulla figura del suo autore, che negli ultimi anni ha attratto l'attenzione non solo di Mayer e di Haeckel, entro contesti e problematiche diverse, ma anche più di recente quella appunto di Christoph Link, che ha concentrato la sua attenzione però piuttosto su un altro aspetto del pensiero di Reinking, quello di Reinking giurista e teorico dei rapporti fra principi e impero. Interrompermi qui per avviarmi subito a qualche conclusione provvisoria e a qualche domanda. E innanzitutto forse questa: perché occuparsi oggi in un lavoro che non vuole essere di pura erudizione, ma intorno alla genealogia del moderno, come dicevo, di un autore come Reinking? Potrei fare riferimento a Foucault, ma è non necessario, perché posso citare invece qui un'affermazione di Otto Brunner, tratta da una relazione fatta nel 1963 all'Accademia delle Letterature e Scienze di Mainz relazione dedicata a Reinking, di cui purtroppo non esiste che un brevissimo riassunto. Brunner scrive: la storia delle dottrine dello Stato e delle teorie politiche può essere fatta sotto due punti di vista. Da un lato, prendendo in considerazione la sua struttura teorica ideale. In questo caso saranno da porre in primo piano i pensatori originali ed innovatori. Si possono però, d'altro canto, interrogare anche quegli autori che, senza essere dei pensatori di primo rango, pure ebbero grande importanza a causa della loro vasta influenza, e sarà il caso di dirvi che la Biblische Polizei ebbe almeno 10 edizioni, e finirono per essere questi autori uno degli elementi determinanti del modo di pensare politico di coloro che agivano, degli attori politici, e per trasmettere a questi ultimi le categorie fondamentali del loro modo di vedere. E aggiunge Brunner, fra gli appartenenti a questo secondo gruppo si può contare anche Dietrich Reinking, che fu un praktiker, un praticien, si direbbe in francese, in italiano non so, un tecnico forse, della politica e dell'amministrazione. E può essere interessante, appunto, accanto a questa considerazione di metodo, che poi in particolare si riferisce a Reinking, ricordare un giudizio di un contemporaneo, per così dire, diciamo, il giudizio sorprendente di Thomasius nei confronti di un autore, Reinking, che doveva essere dopo poco dimenticato. Bene, questo giudizio di Thomasius non fa che confermare, autore così diverso appunto da Reinking, non fa però che confermare le considerazioni dell'ordine che Brunner andava facendo, quando Thomasius scrive a proposito di Reinking e della Biblische Polizei: non si può negare che in quest'opera è contenuto ancora oggi molto che ha straordinario valore per noi. E che, se volete, nella coppia di termini, Göttliches Regiment è il secondo, quello di governo o di Polizei, che comincia qui a prevalere o su cui si sposta l'accento. Reinking dichiara infatti nella Vorrede che la sua Polizei oder Axioma Politicum vuole insegnare in realtà le rette regole del governo, ovvero la Regierkunst. A partire da un'osservazione di Eckel si può suggerire l'ipotesi, che è tra l'altro un uso ambiguo che Reinking fa della Streitende Lehre, la ragione per cui in questo ortodosso Staatswissenschaft i limiti tra la sfera mondana, in nuce quella statuale, e quella della Chiesa finiranno, i limiti tra queste due sfere, a furia di oscillazioni, per spostarsi e capovolgersi a favore della prima. A proposito di quella che con un linguaggio moderno ma non inappropriato si può chiamare l'autonomia di questa sfera, quella mondana e dell'amministrazione, Reinking stesso afferma, nonostante la preminenza del primo secolo, che di geistliche sollen das geistliche Amt führen, e aggiunge: ma sich in keine Welthändel stecken, denn einen Fuß nicht auf der Kanzel und der anderen in den Ratsstuben haben. A me pare, su questa autonomia che è già chiara nel testo dell'amministrazione, a me pare che se da un lato l'opera di Reinking resta inscritta, come mostra il frontespizio, nel quadro della medievale concezione di una società dei Trois-Ordres, disblasmata però, come accennato, alla luce delle nuove esigenze dell'ortodossia luterana anti-aristotelica, in cui l'universo apparso diviso in una tripartizione delle funzioni sociali autonome ed equilibrante, e dove l'unità è data ancora e sempre dal fiat divino, pure, al di là di questa grande struttura formale, il tema centrale si manifesta essere quello relativo all'organizzarsi, al prender forma del weltliche Sein. Questo che non è tanto un ceto, ma in qualche modo uno Zustand, cioè una condizione, quella terrena, quella in cui appaiono a loro volta, come abbiamo visto, le condizioni del sovrano principe, da un lato, dei consiglieri funzionari dall'altra e infine dei sudditi, di questi sudditi i quali devono assicurare alla Obrigkeit fede ed obbedienza, oltre che Steuer, Anlage, Subsidia, fede, il termine appunto è quello di Troie, che fa pensare alla vicinanza tra questa figura del suddito e quella del fedele, che questa mattina si fermava. Chiudo con qualche considerazione sui temi o le categorie intorno alle quali si potrebbe ordinare la nostra riflessione sulla genealogia del moderno, intendo questo termine in senso neutro, come si diceva ieri con Reinhardt. Queste potrebbero essere innanzitutto la famiglia, che mi sembra la più generale, di termini governo, regierung, regiment, polizei. Sarebbero dei testi interessanti su questo, ma li salto. La seconda, diciamo, il secondo gruppo, quindi governo o reggimento, stato, e in terzo luogo Verwaltung, amministrazione. Sul primo punto vorrei osservare che questa categoria, o piuttosto questo problema del governo, ed veniva fuori con chiarezza già nella relazione di Prodi, in quei testi molto notevoli di Pio II che ci ha letto, questa categoria del governo rappresenta il punto di vista più generale e al suo interno che potrebbe prendere posto una begriffskiste del termine polizei entro uno spettro che andrebbe da quello tardo medievale, protomoderno di gute ordnung in senso lato, a quello proprio al XVIII secolo di attività ordinatrice e risultato di questa attività ordinatrice di opera del principe e della sua amministrazione. Storia, possono saltare considerazioni intermedie sulla generalità del concetto di governo, pensate appunto a tutto lo stato di problemi che sta tra l'idea di governo di se stessi, che per esempio appare sviluppata fortemente in un autore come Lipsio, va bene, e al fatto che Botero definisce la ragione di Stato come il governo fermo sopra i popoli, eccetera. Storia del concetto di polizei, dunque, a partire da quello di ordine del cosmo fino a quello di ordine del governo, da ordine a forma di governo a stato amministrativo, dove questo concetto di polizei si accompagna al suo scopo e alla sua ragione d'essere, la realizzazione della volpa. E dentro questa vicenda una delle tappe è certamente quella della confessionalizzazione, che si può forse ricostruire, diciamo provvisoriamente, la preistoria dello Stato. Osservare in altri termini qui, ancora sul terreno della Begriffsgeschichte, quello spostamento progressivo della tematica governamentale sul terreno del weltliches, zeitliches Regiment, che tende o sposa, senza saperlo, in quel che si chiamerà poi der Staat. Questa progressione può farci riflettere su un punto che emergeva già ieri nella discussione, senza aver ascoltato la relazione del professor Reinhardt, alla semplice si fa per dire, lettura del testo di Reinking, mi era venuto in mente, a proposito della relazione, su cui non smetteremo certo oggi di riflettere, fra strategie e programmi politici, come si vorrà, e soggetti, che ne sarebbero i portatori, i trigger di queste strategie, il tema del governo degli individui, come un tertamen, appare già con forza in questo modello di società dei traestende, in larga parte intorno alla confessionalisierung, in certo senso, E il modello moderno nasce lì, anche se sarà solo il principe, o piuttosto il Fürsten Staat, che lo porterà a una più piena realizzazione. Questo mostra, mi pare, che un progetto si costituisce nella sua forma di ideale normativo, prima stesso, insisto su questo, che si definiscono le forze capaci di condurlo a compimento. Quindi capiamo prima i progetti e dopo vediamo quali sono le forze che finiscono per metterlo, diciamo, in opera. Per le due altre categorie, quella di Stato e Governo, aggiungerei questo: se la domanda che ha caratterizzato il mondo moderno è stato come si governa, e in questa prospettiva il terminus ad quem sarà Kant, dove essa si trasforma nell'altra con cui si apre l'epoca liberale, caratterizzata questa dalla formula quali saranno i limiti dell'intervento dello Stato, ebbene avanzerei allora l'ipotesi che la risposta da verificare potrebbe essere quella macchina, come si governa, domanda, risposta moderna, quella macchina, attraverso quella macchina, cioè l'amministrazione, che fa funzionare lo scambio politico fra le figure nuove del suddito e del sovrano, scambio che è quello concreto fra Wohlfahrt e Gehorsamkeit, benessere, obbedienza. Questa macchina, con questo sistema di scambio fra questi attori, la chiamerei Stato. Quello che troppo in fretta ho cercato poc'anzi di rilevare è che il disegno o il tratteggio almeno di questa risposta è presente già nelle quinte dello scenario della Biblische Polizei. Allora, Foucault aveva detto, nel quadro di una ricerca portata avanti insieme qualche anno fa su polizia e governo, che l'Astis potrebbe essere qualificata da questo processo che aveva dato nome di governamentalizzazione dell'età. Oggi mi sentirei di ribaltare quella sua affermazione e di dire che l'età moderna è caratterizzata da quella rivoluzione che ha avuto come posta in gioco l'etatizzazione du gouvernement. Sudditi e governo, Verwaltung, Polizei, Staat, in questo triangolo di concetti di cui si dovrebbe ricostruire una Sozialgeschichte, che si è giocata la vicenda della nostra vergangene Gegenwart. E mi fermo qui ricordando appunto solo che Seckendorf, dopo il suo grande trattato sul principato tedesco verso la fine della sua vita, ha scritto un testo singolare, il Christenstaat. Qui, dietro un universo mondano, se ne apre un altro, quello del silenzioso rientrare in se stessi. Mentre il cancelliere di Gotha si spegne, però si aprono le porte dell'università di Halle, creatura sua e di Federico Guglielmo. Il fedele, mi verrebbe da aggiungere, anche pensando appunto alle considerazioni che hanno fatto stamattina, il fedele si è ora come ritratto dietro la scena nel suo mondo interno. Davanti, sulla scena pubblica, avanza il suddito. Risposta platonica, lasciatemi dire, spezzata fra interno e esterno, alle tragedie delle guerre di religioni e alla crisi, di cui parla Roma Schnur, della prima metà del XVII secolo. E certamente dall'insoddisfazione di questa risposta che è nata un'altra genealogia, quella del cittadino, genealogia questa che è forse ancora quella della nostra Vergangene Zukunft.